Riflessioni da Marte. Questa volta, osservando come sempre il globo terracqueo da quassù da Marte, viene da fare, manco a farlo apposta, una considerazione astrofisica. Si pensava che almeno il 95% dell'universo fosse fatto di materia oscura, estesa appunto un po' in tutto l'universo. Ebbene, in realtà, è una scoperta di quest'estate, la gran parte della materia oscura si apprende, si concentra tutta nella penisola italica. E il nocciolo duro di questa materia oscura è la manovra economica. La misteriosa materia è inintellegibile anche coi telescopi ottici, assai poco chiara pure agli occhi di avveduti economisti, anche qualora muniti di raggi infrarossi. È, dicevo, questa materia oscura di cui è fatta la manovra, il vero rebus di questo anno solare che si approssima al suo termine. Sembrava in un primo tempo fatta di un materiale, poi invece di un altro, poi dopo di un altro ancora, in seguito ancora diversa da come appariva prima. Comprendere in cosa consista questa materia oscura, insomma, è una delle sfide più appassionanti che un intero popolo è chiamato ad affrontare. Quello che si sa è che si tratta di una manovra che non ha voluto mettere le mani nelle tasche degli italiani, bensì nelle borse, che ovviamente è una cosa ben diversa. È una manovra depressiva. Si era lamentato qualcuno parlando della materia oscura, forse perché essa, in una prima formulazione, combatteva pesantemente l'evasione, nel senso di distrazione, di chi voleva approfittare delle feste per farsi qualche piccolo ponte qui e là. Ed ecco allora che, per non ingenerare ulteriore depressione, la materia si modifica ancora e partorisce sane e salve le feste, eccetto quelle patronali, tipo Santa Rosalia. Nel frattempo, un parlamentare, per fare finalmente chiarezza, ha proposto con piglio risoluto una tassa sulle bibite gassate. Per fortuna però, in tutta questa massa nebulosa e persino, nel caso di dire gassosa, si apre qualche spiraglio per l'occupazione, soprattutto. Tra Roma e l'Abruzzo cercano infatti centinaia di panificatori. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Tanto coraggio ci vuole, intanto si torna a parlare di una lotta all'evasione, quella fiscale, che non sia evasiva, e dalla clinica, dove fa preoccupare da tempo migliaia di fan, panificatori e non, per la natura oscura del suo malessere, Vasco Rossi, chiamato in causa sull'evasione, assicura: io le tasse le ho sempre pagate, io ho sempre dato il mio contributo per mantenere questo paese. Insomma, un default evitato grazie anche al Vasco, si potrebbe dire. Per fortuna allora che Vasco c'è. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria.